Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ciao, grande Alessandro Magno. Fare il sindaco di Roma vuol dire stare in ufficio e in giro 14 ore al giorno. È una cosa chiara a tutti che una mamma non può dedicarsi a un lavoro, e in questo caso sarebbe un lavoro terribile, perché Roma è in una situazione terribile. Penso che sia Giorgia Meloni a decidere quello che deve fare. È come se una donna che aspetta un bambino non sia in grado di fare una carriera politica. Questo lo trovo assolutamente inaccettabile per quanto mi riguarda. Amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente. Quanto a considerazione delle donne, mi pare che la mela Bertolaso sia caduta poco lontano dall'albero Berlusconi. Mi pare che quando al Family Day ha annunciato che era incinta, aveva detto non mi candido perché sono incinta, quindi beh, libera di cambiare idea. Se io fossi suo marito mi preoccuperei molto, perché cercherei invece di coccolarla, di tranquillizzarla, di proteggerla. Quest'ultimo era il Bertolaso, Guido Bertolaso, ieri da noi alle 8:40 con Oscar Giannino, Se fossi il marito di Giorgia Meloni, peraltro non è sposata, vabbè, ma questa è una quisquiglia. Se fossi il marito di Giorgia Meloni mi preoccuperei, dice Guido Bertolaso, cercherei di coccolarlo. Per la verità oggi Giulia Bongiorno, una donna che è stata anche in Parlamento, per il centrodestra, effettivamente in un'intervista al Giorno dice: "Bah, effettivamente mi chiedo, ma come farà? Come farà Giorgia Meloni dovesse diventare sindaco da mamma? Proprio come farà?" Poi ognuna ovviamente si organizza come può, ma mi pongo la domanda. Ma non è uno spettacolo questa campagna elettorale? Ma tutte le campagne elettorali, guardate che... cioè, non vi fanno neanche pagare il biglietto. È gratis, basta mettersi lì, ascoltare tutte le minchiate che girano. Ma guardate che è uno spettacolo. Il Corriere della Sera, sentite qua, Umberto Bossi: "Ma Salvini pensa di diventare così il leader del centrodestra? È un coglionazzo." Umberto Bossi: "È un coglionazzo." Su Salvini. E Berlusconi: "La Meloni, se penso che l'ho fatta ministro, se penso..." E poi ha detto: "Ditele che non la ricevo", ormai non le vuole parlare più. E come Di Salvini ha detto: "Ha fatto solo la comparsa a Mediaset", Berlusconi della Meloni ora dice: "Ma che lavoro ha fatto nella vita quella lì? La babysitter a casa di Fiorello. Questo è stato il lavoro di Giorgia Meloni fino a oggi." Che poi, tra l'altro, in quel "se penso che l'ho fatta ministro" proprio c'è tutto Berlusconi, come dire: "L'ho fatta ministro io, quindi mi deve essere riconoscente a vita, deve prendere ordini da me per sempre, perché io l'ho fatta, io la distruggo." Beh, straordinario Berlusconi. Allora, cari amici, sono le 6:33 minuti in punto, questo è 24 mattino. Siamo in questo momento anche in diretta su Facebook, c'è un video, mi stanno vedendo? Possiamo invitare subito anche la nostra Paoletta Saluzzi. Paola! momento che mi pettino meglio. Sì, infatti, ecco. Fatti vedere bene su Facebook. Ecco, sai perché? Fatti vedere, dopo ecco. Tutta la notte di Radio Paola. Dopo di Radio Paola, sì, sì. Minimo sistemare. Filino di trucco. Buongiorno. Quell'attimo, eccolo qui. È che la gente adesso va su Facebook pensando di vederti. È al telefono, Paola Saluzzi, è al telefono. Quindi ma un giorno farò la sorpresa. Sì, vabbè, un giorno. Certo. Prometto di venire opla di Milano. Opla, ecco, track. E gli studi si aprono e c'è Paola Saluzzi. Ti tengo anche per buongiorno la rassegna stampa, Lido. Poi ti sequestro, ti faccio fare Radio Paola di notte e Radio Paola di giorno. Assolutamente, magari, benvenga, eccoci pronti. Allora, insieme a Paola Saluzzi a godersi questo spettacolo di campagna elettorale c'è Luca Dini, direttore buongiorno. Di Vanityfair. Buongiorno. Anche tu un buongiorno. Sorriso per Facebook, grazie. Guarda, il giorno che fate FaceTime io smetto, lo dico già. No, lo stiamo... sto al buio. Stai al buio, ma tanto sei al telefono. No, sei al telefono, ma non ti si vede. Settimane fa il direttore ha mandato su Twitter una cosa meravigliosa, il selfie di Luca Dini. Certo, al buio. Un quadrato nero. Lo sapete che non potete scampare ogni mercoldì e quindi anche oggi tu da Paola tra poco da preparati, ecco, tra l'altro stavolta come Portobello un editoriale di Caterina, questa volta lo vogliamo, hai 20 guarda, minuti di facendo, tempo però sta facendo le fusa, non so se si riesca a sentire, no, ovviamente no. No, vabbè, hai 20 no. minuti di tempo vabbè. Per strapparle un baffo in modo che dica sì, qualcosa. Anna, non dica così. Vabbè. Sì, ecco. Allora, invece guardavo Roma dalla finestra, così. Ci sono tante mamme col pancione che girano? No, ci manca, no, nel senso, la polemica è accesa e abbiamo anche questa sì. polemica. Questa polemica, sì, ci mancava pure questa, dai, diciamo, ci mancava pure questa. Tra l'altro, oggi Giorgia Meloni si candiderà, è ufficiale ormai, cioè non è ufficiale, però l'annuncio è oggi, dai, sui giornali c'è una conferenza stampa. Tra l'altro Giorgia Meloni sarà domani ai nostri microfoni, ve lo posso dire, alle 8:40, e, credo proprio si candidi. Certo, Luca Dini, dai, su, dite quello che volete in questa... No, voglio dire, ma un ottantenne fa il leader del centrodestra? O il nonno, dai. Un bisnonno ormai. Bisnonno, sì. No, bisnonno, è bisnonno? No, non ancora, no, però diciamo che... No, non lo so, io sto ecco. No, perché il nipotino più grande quanti anni avrà? 12 anni. No, meno. No. Lui veramente ha una nipotina che ne ha 20, credo. Sì. Attenzione. Per cui insomma potrebbe essere quasi in età. Esatto. Però è veramente una polemica assurda. Anche perché cioè, credo che onestamente io magari non la voterei, però credo che Giorgia Meloni incinta potrebbe essere un sindaco molto migliore di Ignazio Marino, eccolo lì. Però sì, la polemica è anche francamente un po' stucchevole, cioè siamo dopo 48 ore se ne parla. Io speravo che dopo 24 ore Paola si calmassero le acque, si sono rotte le acque, davvero papà poi peraltro sì. Sottolineiamola tutta, Lino Milan è un super papà come sì. la nostra Wondi è una super mamma, certo, insomma, certo. Genitori veri, autentici, ma credo che l'unica a dover dire l'ultima parola veramente sia lei, che era partita con questa idea del aspetta un bimbo a correre esatto. per il sindaco di Roma, non sarebbe la cosa migliore, così come Giulia Mongiorno esprime dei dubbi legittimi, alla stessa stregua, insomma, una donna che aspetti un bimbo può è libera di decidere, sì. ecco, mettiamolo in questa esatto, maniera. È libera anche libera se di decidere. Era partita come dicevi tu, lo facciamo sentire, dicendo lei stessa sono sì. incinta e quindi non posso farci. Ma vive il cielo, ma si può anche cambiare idea, no, insomma, e dietro c'è tutt'altro tipo di polemiche. Soprattutto, insomma, esatto, quando si vuole far fuori Berlusconi. Si corre per le elezioni del 2018 e si corre con questa nuova legge elettorale, quindi insomma il senso è questo, stringendo e quindi... E siamo di fronte a ciò. Comunque, sentila qui Giorgia Meloni all'inizio. La sentiremo domani. Perché non ti presenti alle elezioni a Roma? Perché perché sono incinta. E che fa? E che fa? Amore mio. Quando partorirà il nostro. Perché sono incinta, non mi presento perché sono incinta. Amore mio, risponde così alla domanda. Però ha cambiato idea. Che poi ha cambiato idea, però è una questione politica, parliamoci chiaro, è una questione politica. No Luca, è chiaro che qui cioè, si pensa, nonostante Bossi dica ma Salvini vuol diventare così il leader del centro-destra, beh è un coglionazzo, dice così, dice così Umberto Bossi, però in ballo c'è questo, in ballo c'è questo, cioè la leadership, o comunque vedono i giovani scalpitanti, Salvini e Meloni, un modo per, come dire, far da parte Berlusconi, questo è. Sì, c'è anche, sì, vero, c'è anche secondo me la questione di salvare una città che ha bisogno di altro in questo momento. Sì, soprattutto non di dibattiti su questo. Ma guardate che però lo spettacolo... E cos'era? No, lo dico. No, dico, abbiamo una città che ha bisogno di urgenti trattamenti. E quindi, esatto. Quindi è chiaro che, attenzione, in campagna elettorale non è che si possano risolvere le cose che attanagliano Roma, i problemi che attanagliano Roma, questo va anche detto, nessuna campagna elettorale, politicamente parlando, risolve le questioni che poi sarà chiamata a far risolvere a colui o colei che vincerà questa campagna elettorale. Sì. Però diciamo che abbiamo bisogno di soluzioni e non di problemi. Sì, soprattutto avremo bisogno di adesso una campagna elettorale, speriamo ci mettiamo alle spalle questa storia e si parli un po' di contenuti. Ma ora arriverà il libro di Ignazio Marino. E ah quindi, sì? Quando esce? 31 marzo. Ah, sono in libreria, in coda. Il libro di Ignazio Marino in cui vengono fatti, dice l'autore, nomi e cognomi. Nomi e cognomi. Di che cosa? E scontrini. E scontrini, nomi, cognomi e scontrini. Ma nomi e cognomi di che? Cioè, nel senso, di chi l'ha fatto fuori? Nomi e cognomi? Tali presumiamo, insomma, che siano. Sì, insomma, ci saranno molte polemiche, si solleveranno molte polemiche anche. Anche lì, vabbè, allora vedremo. Sì, tra l'altro su Roma c'è questa storia. Vi ricordate Alfonso Sabella, cioè l'ex... L'ex assessore di Ignazio Marino, ora finisce consulente giuridico di Renzi per la corruzione, contro la corruzione, insomma, per contrastare la corruzione a Roma. Queste cose anche me un pochino mi fanno un po' perplesso. Beh, ma come? Dici... Parliamo di un signore che sta dove mettere le mani. Ma certo, un magistrato, una persona che... Ben vengano queste notizie. Ha contrastato la mafia. Però voglio dire, è un po' strano, no? Cioè, stai con... E adesso fa un'intervista, anche oggi al Fatto Quotidiano, dicendo Marino ha sbagliato di qui, Marino ha sbagliato di là. Però, insomma, ci stavi insieme. Vabbè, comunque. Sì. Comunque è uno spettacolo. Le primarie, le amministrative sono uno spettacolo. Per esempio, caro Luca Dini, cara Paolo Saluzzi, sapete come si chiama il candidato a Napoli del Movimento 5 Stelle? Io ve l'ho letto, vi giuro, ho sorriso, ma poi sarà una persona che vive a Napoli, peraltro, quindi conoscerà Napoli. Noi non tifiamo per nessuno, ma sapete chi candida? Luca, chi candida a Napoli il Movimento 5 Stelle? Nome Stefano. Cognome Brambilla, città di nascita, Monza, prerogativa a Napoli, tifoso della Juventus, si candida sindaco a Napoli, auguri, Sciur Brambilla. Io pensavo fosse un Brambilla nato a Napoli, è nato a Monza, vive a Napoli, per carità, e il Sciur Brambilla a Napoli, vedremo. Ragazzi, anche questo. Ieri pomeriggio, nell'ultima mezz'ora, ho avuto Antonio Bassolino vis-à-vis. Sì, Oltre ad avere una voce da tenore, è incavolato. È incavolato, però chissà se lasceranno possibilità di una Pax vicina. Sì, sì. Rispetto a tutto ciò che è successo, rilancio. Così l'ho visto uscire, per cui rilancio quello che ho visto, come ho sentito. Cioè la Pax, cioè non si candida? Non fa una lista? Non lo sappiamo. Forse no. Comunque su Brambilla, perché no? Sul Brambilla. È l'opposto di Così parlò Bella Vista, no? Esatto, ricordate? Esatto, insomma, del milanese che scende a Napoli, quindi anzi lo posso, è la storia del milanese che scende a Napoli, vedremo. È fantastico. Stefano Brambilla di Monza, prerogativa, sono tifoso della Juve. Se è prima dichiarazione, quante probabilità avrà Luca Dini di diventare sindaco di Napoli? L'ultima cosa mi sembra l'unica veramente grave. Esatto, è gravissima, tra l'altro, non solo a Napoli, tifare Juve. Come tifa Luca Dini? Luca Dini è un interista così all'acqua di rose. Amavala. Ma sei all'acqua di rose o no, Luca? O sei... Sono diventato per forza di cose. Ah, sì, cioè mandavi in curva? C'è stato un tempo? No, per carità, mai in curva. British Luca Dini, mai in curva. Però insomma, andavi, andavi allo stadio o l'hai sempre seguita un po' così? No, ci andavo, sì. Ah, ecco, vedi. Non ci vado più, confesso. Non ci vado più. Va bene, d'accordo. Vabbè. Era così, scusate, è stata una digressione. No, va bene. Allora, però, ieri invece, ieri mattina alle 6:30, io avevo Maria Dinolfi, lo chiamiamo spesso tutte le mattine, tutte le settimane, sapete, e, questa storia di Kung Fu Panda. Porca miseria, lui ha insistito, esiste che questo Kung Fu Panda 3 non va bene perché Po il panda, ha due papà, o meglio perde il papà, se ho capito bene, in questo film che uscirà a giorni, insomma. E quindi si mette con un altro che lo cresce, Loca credo, che lo cresce, e quindi ha due papà. E vabbè, qui ci ha spiegato tutto. Poi è andato da Radio DJ, dove Fabio Volo l'ha accolto in maniera molto tranquilla, pacata e serena. Senti qui, Fabio Volo, eh. Ok. Sono arrivati anche qualche messaggio di qualche cattolico che si è sentito offeso. Allora, i cattolici in generale sono ben accetti. Quelli che si sono sentiti offesi perché sto cercando di discutere con la Dinolfi possono cambiare stazione o andarsene a fanculo, che per me è la stessa cosa. Questo è stato il modo in cui l'ho accolto. E poi lo chiamano e finisce malissimo. Sedie che vuole. A un certo punto Fabio Volo si arrabbia e fa partire una sedia in studio, giuro. Con gente che ci ascolta, che se tu adotti un figlio non sei il padre, cazzo. L'ho detto questo. Eroi, ho detto la sedia contro il muro, porca puttana. Ma se un padre biologico ritrova il figlio, c'è anche la fine. C'è anche la fine. No, la che vuoi, però mi dispiace se dici che io ho malattie, devo farmi di psicofarmaci. Hai delle patologie, certo. Non c'è più discussione. Ma certo, perché non c'entra niente col cattolicesimo, perché io l'ho letto il Vangelo. Ma io l'ho letto il Vangelo, ma non c'entra niente, tu ti nascondi dietro il nome di una religione perché devi curarti delle patologie. Ciao, capite, però dai, Fabio Volo, adesso noi allora Luca, tocca difendere Mariona Dinolfi. Cioè, mi ha detto sei un malato. Alla fine gli ha fatto una domanda che non gli è piaciuta la risposta. Sì, il padre biologico ha detto: ma fatti di eroina! Ma vada! Ma ciao, buona giornata! Gli ha messo giù. Allora, Luca, adesso va bene tutto, però, no? Sì, io però sono abbastanza d'accordo, devo dire. Con chi? Con Fabio Volo. È con Fabio Volo. Cioè, tu la pensi come Fabio Volo, ho capito, però cioè, adesso sei un malato. No, sulle patologie. Ah, sulle patologie. Cioè, sì. Mariona Dinolfi ha delle problematiche. Sul fatto di nascondersi dietro qualcosa, secondo me sì. Mi dispiace dirlo, ma... È così, è la cruda verità. Non la trovo una posizione. È la cruda verità. Vabbè, okay. Facciamo così. Dobbiamo andare al traffico, allora. Poi su questo voglio sentire anche Paola, tra poco. Il traffico. Il traffico è come Brunetta. L'hai visto il traffico? L'hai visto il traffico? L'hai visto il traffico? Traffico? Il traffico? Il traffico? Guarda che il problema non è solo essere brutti o grassi o belli o secchi. Quando una si presenta come disoccupata in Italia equivale a essere presa come un drogato negli anni 80. Ragazzi, non parlano di programmi perché non hanno niente da dire. E non vogliono cambiare niente. Dopo Bertolaso candideremo anche Proraso, eppure Pippo e Sant'Anastaso, e anche il mio naso, ma sì, dai! Milan, la Moretti, bella gnocca, contro Zaia, ha perso! E Omina, e sono Silentino, e stamattina ho comprato Vanity, lo prendo, lo apro, pochi culi, belle foto, Ma poi non si è messa la servietta, quella che mi profumavo un poporino. Diglielo che ce la metta a Luca. Diglielo a Luca lo stesso. Ciao. La saluzza con la sua gatta la mattina presto, ma solo per me siamo al top. Non lo so se solo per te siamo al top, caro ascoltatore. C'è la salvietta, Luca, questa volta? La salvietta, no. Non c'è. Pochi culi, si lamenta il Fiorentino. Il Fiorentino, Luca, sai che... mettili d'ordinanza. Esatto, esatto. Pochi culi. Metti un giorno una pagina così solo per il Fiorentino, edizione toscana, solo di due o tre culi, così lui è tranquillo. E la salvietta. E la salvietta. La salvietta è così. Si scherza, ovviamente, si scherza. Allora Paola, però siamo qua, Paola Saluzzi. Sì. Luca ci dice che insomma Fabio Vola ha ragione, magari non nei modi, no, nelle sedie che allora volano, però so. Mi ero persa questo momento di ma è durato 5 minuti, ma se ne sono dette di tutti i colori. Ma sono ancora qui, sono senza parole per Kung Fu Panda. Sì, sì, povero, sì, povero, ma, po', ma ci, povero po', povero po', ragazzi. Arravugliare, come dicono a Napoli, su Kung Fu Panda, no, per favore. Sì, sì, no. Sì. No, no, cioè, quando Volo ha urlato, io l'ho letto, il Vangelo non dice queste cose, adesso voglio dire. Ma sì, poi ha iniziato Gesù aveva due papà, il papà, cioè Dio, il papà Giuseppe. Vabbè, questo è, ma nel senso... Kung Fu Panda. Sì, Kung Fu Panda. No, perché tra l'altro, ovviamente Fabio Volo, forse non tutti lo sanno, è il doppiatore di Kung Fu Panda, è la voce di Kung Fu Panda. Sì, ma sono sconvolta. Senti qui, c'è stato un altro momento, è un altro momento. Fabio Volo a Adinolfi. Adinolfi, ascoltami, poi la metto giù perché adesso sono tranquillo, scusami. Perdonami se sbrocco, tu fai benissimo a star lì nella tua posizione. Ecco, ascoltami, ascolta. Io ti voglio dire una cosa. Se un bambino adottato è cresciuto da un uomo, quell'uomo è suo padre. Dopodiché, se arriva il padre biologico... L'ha abbandonato, non conosce... Ok, metti che torna, metti che cambia idea. Tu sei calmato, cattolico, Fabio. E quindi c'è il calmato, perdono. Cambia Fabio. Idea, torna. Chi è dei due il padre? Quel bambino riconoscerà sempre il padre biologico suo padre, perché inevitabilmente... No, vabbè, ma te, altro che psicofarmaci, ti devi fare d'eroina, ma vaffa, va dai, Adinolfi, buona giornata! Paolo, hai capito? Gli ha dato l'ultima possibilità, mi sono calmato, ma vaffa! Un confronto pacato, lo definirei un confronto pacato. Sì, sì, sì, esatto. Come dire, va bene. Senti poi la musica di Kung Fu Panda, ma che tranquillità ti mette, ma dai, ma c'è... Cioè, uguale, proprio. Però, insomma, è chiaro che se un bambino viene cresciuto da un papà, il papà è il papà che lo cresce. Ma insomma, infatti... No, poi comunque no, sì, è quello biologico, Riconosci che è il papà biologico? Io non lo so, oddio mio, ma non tocchiamo con... Ma no, infatti, ma no, dai, non tocchiamo... Ma poi che cosa c'entra? Cioè, se pensate al mondo Disney, Topolino, Paperino, lì sono tutti cresciuti dagli zii. Esatto, cioè, sono tutti gente, maiali, papà di Mook. Sì, esatto. No, prego, Orazio e Clarabella. Orazio è un cavallo che è fidanzato con una mucca. Esatto. Sì, proprio, ma Disney, proprio... commistioni di robe disumane. Un po' come Mucca e Pollo, ieri mi ha scritto anche Mr. Peabody in Sherman con il gatto che viene affidato a un cane, il bambino che viene affidato a un cane, cos'è il bambino che adotta un cane, no? Diventa il papà, cioè... il libro della giungla, insomma, comunque segnalo che Vanity Fair cosa avete fatto su insomma la maternità surrogata, caro Luca, vedo un servizio, insomma, siete andati in quegli stati magari un po' meno civili degli Stati Uniti da questo punto di vista, possiamo dirlo? Semplicemente abbiamo provato a provare a farlo, diciamo, e il risultato è lì, senza giudizio, insomma. Cioè, nel bene e nel male, devo dire. È facile farlo, soprattutto in alcuni stati come l'Ucraina, no? Dove si può chiamare, si può. Insomma, Russia. Magari, la Russia. Ci sono magari degli stati dove le procedure sono un po' più sempliciotte, forse diciamolo così. Sì,